Senti Andrea, partiamo un po' dall'esperienza dell'asilo di Langeri a Napoli, ecco, sì. Ci racconti un po' a grandi linee come nasce questa esperienza? Sì, l'esperienza dell'asilo nasce nel 2012, il 2 marzo del 2012 avviene l'occupazione di quella che era la sede della Fondazione Forum Universale delle Culture. In realtà prima di quella data venivamo appunto da un po' di mesi di grande fermento, di grande mobilitazione, sia a Napoli ma un po' in tutta Italia. L'esperienza dell'asilo nasce proprio all'interno di un contesto storico molto preciso, il periodo appunto della crisi economica e dei grandi tagli che il settore culturale ha dovuto subire. Diciamo dal 2008 ad oggi parliamo di quasi il 50% dei tagli, quindi capirai occasioni lavorative dimezzate, insomma aumento della disoccupazione. E poi nasce in un contesto della crisi appunto della democrazia rappresentativa. Io parlo soprattutto, poi conosco molto bene la degenerazione che hanno avuto soprattutto gli istituti pubblici della cultura, appunto soggetti a spartizioni politiche, dinamiche clientelari, spoil system, e in terzo luogo anche il dibattito culturale, il dibattito giuridico sui beni comuni. Ricordiamo che l'asilo appunto fu occupato 6 mesi dopo l'occupazione del Valle, che a sua volta era stato occupato del Teatro Valle a Roma, che a sua volta era stato occupato all'indomani del grande referendum sull'acqua che aveva portato al voto alla mobilitazione di 27 milioni di persone. Quindi era un periodo di grande bisogno appunto di partecipazione e di mobilitazione. Sì, sì, sì, sì. Quindi anche a Napoli, un po' come un po' in tutta Italia, abbiamo avuto un momento di ricomposizione appunto di un comparto inedito, che è quello dei lavoratori dell'arte, della cultura e dello spettacolo. Abbiamo affrontato grandi momenti assembleari, siamo partiti prima come attori, poi si sono aggiunti i musicisti, i registi, gli editori, i ricercatori, lentamente anche gli studenti, ma lentamente anche i comitati di quartiere. Certo. Addirittura in quell'epoca c'era anche la rete Commons, la rete appunto che si occupava, che aveva combattuto sul fronte antidiscarica. Quindi un po' questo il dibattito sui beni comuni ha riunito veramente un grande numero di persone. Sì, sì, e poi questa ricomposizione è sfociata poi, diciamo, nell'occupazione dell'ex asilo Pietrangeli il 2 marzo del 2012, che era la sede della Fondazione Forum Universale delle Culture, come ho detto prima, grande evento della cultura che insomma caratterizzato da un ingente spreco di denaro pubblico calato dall'alto, gestito in maniera opaca, in maniera verticistica, verticale, in maniera politica, e che non ha lasciato appunto niente almeno nei 2 anni, diciamo, della fase preparatoria non ha lasciato assolutamente niente alla città. Durante tutto l'anno del 2012 l'immobile era abitato soltanto dai funzionari della fondazione, era completamente disabitato, non c'erano attività, quindi insomma era stato visto, identificato un po' come il luogo simbolo, diciamo, della degenerazione culturale a Napoli. Sì. E quindi da quel momento c'è stata questa 3 giorni, anche a Napoli si era pensato a fare 3 giorni solamente di occupazione simbolica. L'azione è stata talmente dirompente che ci siamo ritrovati a portare avanti appunto a continuare questo processo di gestione. Lì dove appunto c'era la Fondazione Forum Universale delle Culture, abbiamo posto un processo orizzontale, radicalmente aperto, attraverso appunto assemblee pubbliche, ci siamo poi divisi in tavoli di lavoro, insomma è stato un lavoro molto lento, molto lungo e molto bello, quindi insomma oggi ci ritroviamo a 6 anni, diciamo, di processo molto molto molto vivo. Sì. È un processo all'interno del quale oggi l'asilo, appunto, poi magari Peppe ci dirà meglio anche un po' su tutta l'elaborazione giuridica che ha caratterizzato questa esperienza, perché questa è un'esperienza appunto politica, artistica, culturale, ma anche profondamente giuridica. Ad oggi l'asilo non è né occupato e non è né assegnato, c'è appunto una comunità mutevole che riconosce la sua pratica in un regolamento d'uso pubblico e che quindi favorisce la gestione e l'utilizzo degli spazi. In questi anni abbiamo avuto almeno 2500 soggetti diversi che si sono alternati, hanno potuto fare produzioni artistiche, residenze, concerti, assemblee, attività sociali, quindi diciamo uno spazio che riunisce la grande complessità, diciamo, dell'arte, della cultura, della socialità, insomma, che ribalta anche un po' la concezione delle politiche culturali. Sì. Allora, visto che al tuo fianco dovrebbe esserci Giuseppe Micciarelli, che è uno dei giuristi che vi sta seguendo, io a lui chiederei sulla quale si stanno concentrando rispetto all'uso pubblico di questo spazio. Ciao Giuseppe. Allora, innanzitutto la cosa, come dire, prioritaria è che io, in quanto attivista dell'asilo, sto io seguendo, diciamo, le pratiche, che sono in fondo pratiche di autogestione di spazi comuni che sono diffuse in tutta Italia, e come me lo stanno facendo una serie di ricercatori, attivisti, ma non è una questione soltanto tecnica, perché una delle cose più interessanti è che tutte le sperimentazioni altamente professionali che l'asilo vive, un po' come ti ha raccontato prima Andrea, si contaminano anche di linguaggi. Quindi i giuristi e i filosofi parlano di questioni amministrative insieme allo stesso modo con i musicisti, gli attori, i registi. Poi, per rispondere, diciamo, alla domanda che ponevi, noi siamo partiti da una realtà che è una realtà appunto molto diffusa sul territorio. Ci sono diverse pratiche di mutualismo dal basso e di organizzazione collettiva degli spazi, cioè persone che attraverso forme di riappropriazione diretta o anche semplicemente mettendosi insieme e pagando l'affitto di uno spazio in provincia, cercano di utilizzare uno spazio non per loro stessi, ma per tutti quelli che vi chiedono dentro asilo. Questo metodo di gestione diversa degli spazi comuni è una cosa politicamente molto qualificante che si sta diffondendo non solo in Italia, ma in tante altre parti d'Europa. Ovunque noi abbiamo, io li chiamerei degli ex luoghi, cioè degli ex qualcosa, ci sono ex caserme, ex carceri, ex asili come il caso nostro, ma tutta una serie di spazi che vengono abbandonati dal pubblico, una ritirata delle vecchie forme sia del welfare ma sia anche di contenzione securitaria come appunto le galere, e tutti questi spazi o vengono abbandonati o vengono privatizzati. Però c'è una terza alternativa, che è quella che mettono in campo le persone. Certo. Ora, come facciamo a far sì che questa alternativa possa rompere anche in uno dei terreni più ostici, che è quello del diritto? Perché proprio nel terreno del diritto, come anche nel terreno dell'economia, che sono in genere due dei punti più difficili, più critici per tutte queste esperienze, noi ci troviamo a essere vestiti con dei panni che non sono i nostri. Vengono a chiedere allo spazio occupato: ah bene, fate l'associazione, poi in qualche modo ve lo assegniamo. Ma questa forma di utilizzo non corrisponde alla realtà, perché questi spazi non hanno un collettivo che gestisce le cose per sé. Questo metodo di utilizzo proprietario, che risponde a una certa figura del diritto, è il metodo che appartiene a qualcun altro. Allora noi, semplicemente prendendo un antico istituto che esiste tuttora in Italia ma che ha nomi diversi per raccontare la stessa cosa in tutta Europa, che sono appunto gli usi civici e collettivi, l'abbiamo attualizzato, e attualizzandolo abbiamo immaginato che i cittadini potessero amministrare direttamente questi beni, e che questa forma di gestione diretta attraverso degli organi di autogoverno fosse riconosciuta bypassando formali concessioni a un soggetto giuridico, perché vedi, non c'è un singolo soggetto giuridico che è legittimato o ha il privilegio, il titolo per poter utilizzare l'asilo, ma ci sono tanti diversi soggetti che semplicemente devono fare una cosa: condividere lo stesso metodo sul come si decide, come si mettono in comune le cose e gli spazi. E per questo poi questo discorso, ti rendi conto, comunica perfettamente col grande tema di cui parleremo in questi tre giorni, che è quello dei beni comuni urbani. Sì, e ci torneremo subito adesso. Un'altra domanda la vorrei fare ad Andrea rispetto all'utilizzo: come vive oggi l'ex asilo? Sì, allora, come ti dicevo, l'autogoverno dell'asilo si attua ogni lunedì attraverso un'assemblea di gestione e attraverso poi tutta una serie di sottoassemblee tematiche più specifiche nei diversi campi dell'arte e della cultura, che sono arti della scena, quindi teatro, danza e arti performative, infrasuoni, quindi musica e tutta come arte sonora, armeria, arte che sarebbe arte visiva, fotografia, arte scenografica, biblioteca, tavolo sociale e autogoverno, appunto, che riunisce ricercatori, filosofi, giuristi. Quindi diciamo ci sono molte attività di sperimentazione dove per esempio nel campo musicale abbiamo dei progetti che vanno avanti da un po' di tempo, come Geografia del Suono, che è un progetto che riunisce un po' tutti i musicisti in transito che passano da Napoli in transito, li si mette, diciamo, in un discorso di improvvisazione, di incontro con altri musicisti. Oppure per il teatro ospitiamo tantissime residenze, diciamo, laddove le residenze istituzionali scelgono uno o due progetti per escludere poi tutti gli altri, all'asilo si tende a ospitare veramente tutti coloro che chiedono spazio. E quindi residenze significa dare la possibilità di trovare in uno spazio attrezzato, di avere a disposizione anche delle competenze che in un'ottica di solidarietà si mettono a disposizione. Sì. Sì, sì, molte sì. Di queste residenze poi si trasformano in spettacoli, quindi alle volte organizziamo anche dei focus teatro dove poter dare la possibilità a questi spettacoli, appunto, di mostrarsi al pubblico. A fine anno, diciamo durante il periodo di Natale, il tavolo Armeria, quindi il tavolo degli artisti, si occupa di organizzare il grande evento, che è una tre giorni, diciamo, un po' sull'opposizione del grande evento, il grande vento, diciamo, si pone l'obiettivo di spazzare via l'aria malsana attraverso una tre giorni di arte interdipendente, dove il palazzo si trasforma in una grande in uno spazio diviso in tanti piccoli spazi dove dialogano diverse forme di arte, dalle installazioni alle proiezioni, alle performance teatrali. Quindi diciamo questo è un po' abbiamo sì, dallo scorso anno attraverso il crowdfunding costruito una prima sala cinematografica, diciamo totalmente partecipata, quindi giù nella cappella, nella ex cappella, oggi è possibile fare delle proiezioni, diciamo, con delle tecnologie un po' più elevate rispetto a quelle di come eravamo abituati, cioè col proiettore e basta, quindi sì, c'è cioè la possibilità di fare veramente, di fare retrospettive, di immaginarsi un po' il cinema che uno desidera, quindi sì. di farselo da sé, ecco, diciamo questo. È tutto un po', sì. abbiamo anche molte attività sociali, per esempio la scuola di italiano per migranti, la scuola elementare del teatro, insomma, veramente c'è uno spazio polifunzionale, sicuramente. Sì. Dove arte e socialità, diciamo, dialogano continuamente. Diciamo, questo è un po' una necessità, è la necessità primaria per rigenerare un po' le politiche culturali assorbite negli ultimi 10 anni. Bene. Allora, Giuseppe, in chiusura volevo chiederti, ecco, come si è arrivati a questa tre giorni e quale sarà il focus a cui prima accennavi rispetto a questo fine settimana dedicato ai beni comuni. Siamo arrivati innanzitutto perché tutto questo processo che ti stiamo descrivendo non è solo un processo patrimonio dell'asilo, non solo per le pratiche che sono condivise, come già ti ho detto, ma anche dal punto di vista giuridico-amministrativo. Certo. Tutto questo percorso dei beni comuni, tutti questi piccoli avanzamenti che abbiamo fatto non sono rimasti nelle quattro mura dell'asilo. Noi col tavolo autogoverno abbiamo lavorato insieme ad altri spazi in città, ma anche fuori dalla città, per far sì che questa forma di riconoscimento fosse una forma di riconoscimento a diverse forme di mutualismo dal basso e di autogestione pubblica dei beni. E da questo punto di vista siamo riusciti ad ottenere una serie di atti amministrativi, delle delibere a Napoli, che riconoscono anche per altri 7 spazi, stiamo parlando di un patrimonio di circa 40.000 metri quadri di patrimonio pubblico immobiliare, l'avvio di un percorso di uso civico e collettivo. E poi in altre città, a Palermo, ma anche a Torino, alla Cavallerizza, adesso c'è stata poche settimane fa una delibera che riconosce anche in quello spazio originariamente occupato la sfida che hanno lanciato i ragazzi della Cavallerizza 14 e 45, che è quello appunto di avere l'uso civico anche là, ma lo stesso a Reggio Emilia, Firenze, non ti faccio tutto l'elenco. Sì, quindi è venuto naturalmente l'idea di confrontarci a partire da questo terreno, che è quello dei beni comuni urbani, con tutti quelli che in qualche modo condividono le parole che usiamo spesso in diverse forme di attivismo, appunto beni comuni urbani, ma anche neomunicipalismo, ma anche auto-organizzazione, gestione diretta. Abbiamo messo al centro le parole e abbiamo detto confrontiamoci a partire da queste, però innanzitutto tra soggetti diversi. Sì, quindi sì. Quello che faremo dal 17 al 19 novembre, il primo giorno allo Scognizio Liberato, che è uno degli spazi liberati che fa parte di questa rete dei beni comuni emergenti, di cui l'asilo è soltanto una delle parti, e gli altri 2 giorni appunto all'asilo, e questi 3 giorni vedranno oltre 50 realtà dell'attivismo politico, sociale e associativo internazionale. Stiamo parlando di almeno 8 paesi diversi, sì, sì, che sono coinvolti, non solo europei, in questo processo, una cosa che è stata resa possibile dalla Fondazione Rosa Luxemburg di Bruxelles, che è stata parte attiva nell'immaginazione dell'evento e anche dal punto di vista economico c'è stato un sostegno. E la seconda cosa particolare non è soltanto nei numeri, ma il fatto che tutti questi soggetti sono diversi e non fanno quindi parte di un'area predefinita. Cioè, tanto per intenderci, non c'è un'area particolare politico di movimento che convoca questa cosa, perché ci sono le pratiche al centro e tutti questi soggetti diversi in qualche modo si vogliono interrogare a partire da dei confronti concreti. Certo. E le loro prospettive diverse sono quelli che si occupano di un certo tipo di mutualismo dal punto di vista economico, per esempio Jackson, Cooperation Jackson Mississippi negli Stati Uniti, piuttosto che la Commons Alliance di Salonicco. Poi abbiamo amministrazioni comunali che hanno invece la loro prospettiva, quindi quella di Napoli come quella di Barcellona che parteciperà. Poi abbiamo ovviamente movimenti e spazi autogestiti, molti dei quali già te li ho nominati. Sì. Altri sono la rete di Decide Roma, la BAFL, senza che faccio l'elenco, sta sul sito di Certo. E poi organizzazioni politiche che comunque cercano anche di invadere quel terreno della sperimentazione, molto diverse da quelle classiche come Barcellona in Comune, ora Madrid, o Ciudad Futura di Rosario in Argentina. Insomma, tutta una serie di esperienze diverse che cercano non di costruire un cartello, non di uscire con un documento, con la data della mobilitazione, cosa va benissimo, legittima e assolutamente fondamentale, che però si può fare tra soggetti omogenei. Quella interdipendenza e quella eterogeneità, che per me è uno degli elementi centrali e costitutivi dell'uso civico, noi vogliamo trasferire anche in politica. Bene. Lo scopriamo strada facendo e camminando domandando che cosa abbiamo in comune con le altre persone che condividono con me questo percorso, e probabilmente la speranza maggiore è di uscire tutti quanti trasformati. Sappiamo come entriamo, ma non sappiamo come ne usciamo. Quindi venite. Bene, è stato un piacere. Allora, in chiusura ricordiamo le giornate e anche riferimenti web per saperne di più sul programma. Dal 17 novembre alle 5:30 del pomeriggio allo Scognizio Liberato, 18 e 19 novembre all'asilo Filangieri, dalla mattina al pomeriggio, traduzioni simultanee in inglese, spagnolo, italiano, e trovate tutto quanto sull'evento Commons and the Cities che trovate su Facebook o sui siti di ciascuno degli spazi liberati e dei beni comuni emergenti e delle realtà di base che sono gli organizzatori di questa festa. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, Crepo il Lupo, e un abbraccio a tutti, grazie mille. Ciao, ciao, alla prossima, ciao. Ciao.